sera ci manca la chitarra che avrete dava il lato, il lato del pezzo. We'll be right back. Yeah. Fate un applauso a Lolli che sbaglia tutti i pezzi. Alleluia. Yeah. Yeah. Che ora è? È un impegno. Sono? No, però a mezzanotte c'è una persona qua che compie gli anni, eh! E l'Alala! Auguri! Poi sono! Tanto possiamo fermarci prima! Le figure di merda dopo! Prima faccio il concerto. Auguri, grazie per averci ospitato qua questa sera, la nostra prima volta qui. Speriamo nemmeno l'ultimo, dopo mi dirà. Adesso facciamo un pezzo che mette in wow. Fai davvero? Facciamo. Ci va il chitarrista della pianta, ma ai porco Dio! Penso più di tutto. Chiaro queste parole. Porca Madonna. Il giorno della Madonna, eh. Vediamo tutto. No, passato. Cazzo, allora porca Madonna, vero? Aspettate un attimo, adesso proviamo a fare un pezzo, perché solitamente abbiamo due chitarre. Era febbricitante la parola, quindi noi siamo ridotti, pochi ma buoni. Febbricitante. Quindi adesso dobbiamo fare un pezzo che solitamente canta quello che non c'è. Quindi lui si è preso l'impegno e ha detto io lo so, adesso vediamo. Io lo so. Allora fa figure di merda, si fa sempre il tempo, si fa sempre ora. Fate un incitamento al batterista perché è insicuro questa sera. Quindi un Voltaren. No Voltaren. Maestro. C'ho l'occhio ballato, non è sobrio. Adesso dobbiamo fare una figura di merda, io la cerco, facciamola io. La facciamo, la responsabilità sulla tua di merda. Però fate cori, state contando. Uso questo ragazzo. Grazie. Questo è più secco. Buongiorno. Bello tutto. Non si può scendere di gradazione. Che mischia. Non sono cazzi vostri per loro. Non lo so. Alla vostra! Alla vostra! Alla vostra! questa la sai. Thank you. Thank you. pezzo qua. Un applauso ci sta. Io non capisco mai quello che dici. Thank you. Thank you. Carlo. Sì, penso di sì. Io il tabacco.